Insomma, puntate in cui è più bello il backstage che la puntata stessa. Veramente ne stanno succedendo di cotte e di crude. Meno male che non abbiamo la webcam in questo caso, perché altrimenti sarebbe stato peggio di Montalto, che, come ricorderà il nostro Luca Muoio, abbiamo avuto l'onore di avere Mister Peperoncino che mi ha chiamato anche al telefono perché vende i materassi a Bonanima. I materassi all'MZ, quindi dobbiamo andarlo a trovare in massa proprio. Sì. Ma stai ferma con le mani, che c'è tutto pronto. Cosa Dobbiamo vuoi dire anche da dire? un'altra frase, mentre il povero DJ Palla viene ucciso da una parte all'altra. Un'altra frase della Juventus, che in questo caso già il nostro regista ha fatto un palleggio, quindi si introduce alla grande. Ecco, prenditela con lui. Dunque, c'erano Causio, Haller e Bettega. La velocità insieme alla fantasia, la classe mescolata al dinamismo. Dopo arrivò gente come Benetti e Bonimba, che aumentò forza fisica ed esperienza del gruppo. Buoninsegna. No, Bonimba è il soprannome, esperienza del gruppo. Ma quella prima Juve mi è rimasta nel cuore. Tu dirai, questo qui che parla veloce chi è? Dino Zoff. Cioè, di Piaggio, insomma. Va bene, va bene. Dunque, passiamo dopo i Simpson, una veloce carrellata dei Simpson, perché penso che ci ritorneremo in qualche altra puntata. Con molta Perché più no? calma, magari. Sì, perché stiamo facendo le cose di fretta, gli ascolti brulicano. Passiamo ai Griffin. Metodologia quasi simile ai Simpson, Diciamo quando derivati dei Simpson o derivati dei dei Simpson, sì, Futurama. perché sono comunque. Stati creati sempre da Matt Groening, No, da no? Seth MacFarlane, no, e te l'ho detto apposta per. Ah, mi hai fatto un desta Io ho fatto sorpresa. un tranello, infatti. Vabbè. Seth MacFarlane, un ragazzetto di 30 anni abbastanza presuntuoso, che alla puntata numero 1000 si mise anche lui a fare il protagonista. Vabbè. Diciamo, i Griffin che hanno vicende assurde, già il cane che parla, il figlio di un anno che parla, che ricordiamo ha la testa da pallone da rugby perché saltando sul letto è sbattuto direttamente contro il solaio. Ma ci sono varie interpretazioni. Solaio, soffitto. Soffitto, ho deciso che si dice soffitto, si dice soffitto. Mamma mia, è una cosa pesante proprio. Mamma mia, guarda. Guarda che non peso neanche 50 kg, Ma li comunque dimostri andiamo tutti, li avanti, dai, dimostri tutti. ci Vicende vediamo dunque fuori dopo. della realtà con continui flashback, a volte anche fastidiosi, sia sulla televisione americana, ma sono più divertenti quelli sulla storia, sui comportamenti dei personaggi, eccetera, no? Tante Del tipo volte il cane il alcolizzato che cane va dallo alcolizzato, sì. psicoterapeuta. Il pollo, la guerra con il pollo che fa Peter Griffin, eccetera, eccetera. Poi La figlia che la serie probabilmente è che gay. comunque. Sì, una figlia che diventerà maschio poi, mentre Steve poi si ammetterà che è gray. In due serie sarà proprio un frocio latente, Ma anche il Stewie. figlio ha preso le Pappone? No, quello Chris, no. Dunque, orme. la storia. Pappone è gay. No, non è gay quello lì. C'ha solo i capelli tipo Stéphane de Malle, giocatore del Bologna degli anni Sempre, ti 80. rifai sempre al calcio tu, eh? Va bene, le mie metafore sono queste, d'altronde. Dunque, programma che ruota intorno alle avventure di Peter Griffin, di cui ne abbiamo una copia vivente nella nostra bella cittadina. Io proprio mi metto da parte, parlo, non Io vedo, non non lo sento, non dico perché parlo. so che poi la denuncia arriva a te, non per Arriva a altro, me, in questo caso. perché Ma mi vuole a Bisignano bene. abbiamo un operatore sanitario, diamo gli indizi, che somiglia paro paro a Peter Griffin. Vi giuro, se venite in zona, vi faccio proprio da training, vi faccio la guida turistica. Vieni a vedere il socio di Peter Griffin e ci faccio lo speculo. No, tu magari fai la guida, no? In La inglese, guida no? turistica, Vengono in giapponese, no? la Visto che Cicerone. da noi non possono venire turisti al santuario, vengono a vedere Peter Griffin. Socio di Peter Griffin, tu magari ti prepari in inglese. Hello, Hello! this is Peter Griffin. Magari troviamo anche il socio di Mr. Bean e facciamo tutte le marchette. Dunque. Stanno a Quahog, la famiglia Griffin, la Dove si cittadina trova? immaginaria del Island. Rhode Island, che però in una puntata venne cacciata fuori dalla cartina dell'America e ci fecero anche il regno di Pitoria, la repubblica più piccola al mondo, due camere e una cucina, dove il figlio era stato incaricato di avere un progetto sulla Luna e fece la storia di Yuval, che penso a Luzzi conoscono tutti, Yuval che andò sul pranzo e poi cadde, boom! E disse: dovevano metterlo dalla scimmia. Insomma, Peter opera incompetente, obeso e ottuso, che lavora prima in una fabbrica di giocattoli e poi lavora in una fabbrica di birra, il sogno praticamente. E Il sogno di lavora, Homer Simpson. oltre a Vedi che si rifà questo, sempre. e lavora con un mongolo. Con un bambè. Questo, le battute del suo collega. Poi la moglie, insegnante di pianoforte, casalinga, con comportamenti disinibiti e solari. Poi la coppia, infatti il cagnolino, ti ricordi che sì, c'ha ogni tanto per i suoi comportamenti, le sbonie, diciamo. Sì, poi i tre figli, la Meg, ragazza Jessa, Meg, sempre con il cappello in testa, Chris, pappone, veramente la grande matricola, quella che venne presa a pagaiate il primo giorno di superiore, anche dal sindaco Adam West, e che andò anche in un bar e disse di aver vinto un palloncino per un euro. Quindi immaginate voi cosa aveva preso. Con la passione del disegno, infine Steve, il neonato, il mio personaggio preferito, me lo fai la presentare. La cake, sì, saluto a Steve, che ti devo dire. Ciao Stewie, cioè, ciao. Poi ciao. C'è il cane parlante, Brian, il cane filosofo che aveva scritto Brian, prima, non così. Brian, perché dici Brian, nomi sbagliati? Brian, hai detto come Brian. L'Audrup, Brian. Dunque, come cosa... il cervello. Sì, poi c'è chi anche ha fatto la mappa concettuale della famiglia Griffin, andando a vedere tutte le varie ramificazioni, l'albero generale. Ma hanno parenti in Germania. Sì, siccome te hanno parenti dovunque, ecco. E poi ci sono anche in questo caso la miriade dei personaggi secondari. In questo caso ve ne sono tre o quattro principali e tutta una marea di sconosciuti. Glenn Quagmire, colui che si è fatto tutte le donne del mondo, al quale va la mia stima. Ricordiamo che è interessato molto a Lois. Sì, sì. Le fa continue avanze. Sì, sì, dig. Quello che proprio te ne accorgi da lontano. Se non ricordo male, è lui che è la moglie obesa, che poi un giorno cade su Stewie. No, è l'altro vicino ancora. Sarà un altro, okay. Sì. Quagmire sembra satanato proprio. Poi c'è Bonnie Swanson, quella che è stata incinta per 7 sere, finalmente ha partorito. Il marito è quello paralitico, il carabiniere paralitico. Poi Susie Swanson. No. Sì, ma mi sto perdendo un po'. In giro nel mondo, Cleveland, bravo. La moviola umana che poi si staccherà, sì, e farà una serie tutta sua. Bravo. Che la mandano su Italia 2, non se la vede nessuno. La stanno mandando in onda su Italia 2, non la vede nessuno. Cleveland Show, sì, The sì, Cleveland sì. Show è andato in onda anche su Fox. Sì, vabbè. Ed è stata seguitissima. Ma su Fox serie. Sì, ma su Italia 2 no. Che... anche perché poi Loretta, che tradì il buon Cleveland con Quagmire, poi morì. Ti ricordi la scena della vasca da bagno, no? Che Peter fa sempre il casino, si rompe la casa di Quagmire, sì, le cose di Cleveland, mi fai dimenticare. E poi lui con la vasca da bagno, boom, e cade. In un caso cade Loretta e muore all'istante. Quindi c'è non ha avuto la fortuna. Non ha avuto la fortuna dell'ex marito. Poi c'è Ernie il Pollo, ecco, che oggi... gigantizzato prima, il gallo gigante sposato con la gallina Nicole. Come fai a chiamare una gallina Nicole? Il nemico giurato di Peter, con lui scatenerà delle lotte furibonde in tutta cova, che veramente sono scene bellissime. Vedere Peter Griffin che si ammazza con il pollo nelle metropolitane, nei migliori bar di Caracas. Ricordiamo il perché litiga sempre con Peter. Ma solo non c'è un perché, gli ha rifilato un buono scaduto, quindi... Sì, la prima volta, poi... hanno continuato, sì, sono andate a cena, erano diventate amici. Nulla viene dal nulla. Nulla viene dal nulla, sì, siccome noi due, quando litighiamo c'è sempre un motivo. C'è sempre un motivo, o non c'è. Ecco, ci sono ben 10 stagioni, sono arrivate 9 in Italia, ci sono le puntate nuove sempre su Italia 2, puntate peraltro rimasterizzate, rifatte in Dolby Surround, anche le puntate precedenti, se vengono rimandate in onda in America, sono state già modificate, manco fosse ladri di biciclette del 40, cioè... Che assurdo. Visto solo tu. Che no, no, non è sto famoso, scherzando, no. Dai, sì, lo doppiaggio so, italiano, famoso. Peter Griffin, fatto da Minio Caprio. Poi vabbè, Lois, la moglie Antonella Rinaldi. Ecco, leggi tu così. Così ti riposi un po', sì, bevi sì, un po' d'acqua, una birra, un goccio di vino, qualcosa, alcolizzati. Meg Griffin, la figlia, viene doppiata da Maura Cenciarelli. Ma chi è? Ma non lo so. Non si sa. No, sono doppiatori comunque di bassa lega. Poi c'è la morte, ogni tanto compare la morte, no? Dammi il 5, boom, e fa morire uno. Guarda, è una bella tattica. C'è il sindaco Adam West che in una puntata fa l'amore con Luke Perry. Veramente una puntata bellissima quella. Quella oltre quella, oltre la puntata di Adam West con Luke Perry, ricordiamoci sempre la puntata di Pitofia. Ricordiamo veramente anche che Luke Perry, oltre a Beverly Hills, ha fatto solo questa puntata. Sì, sì, sì, e basta. E il suo doppiatore, invece, ricordiamo il grandissimo Francesco Prando, che nei migliori film americani c'è sempre. C'è veramente una grande voce. I Griffin, peraltro, che offendono Gesù Cristo in maniera assurda. in maniera molto aperta. In maniera molto aperta. Ci sono stati dei casi veramente anche un po' sgradevoli, tipo delle satire su Terry Schiavo, eccetera, eccetera. Ma in America è un altro modo di vedere. In Italia sarebbe inimmaginabile una satira così aperta ai politica, ai politici, alla TV o ad altro, penso. O sbaglio. O al Papa, perché il Papa compare anche nei Griffin, no? Con le monache che si strappano le vesti, come quella che era passata poc'anzi. Che tu hai molestato. Che io ho molestato, sì. E poi Peter Griffin che uccide praticamente chi guida la papala mobile e lo porta a casa Griffin. E il Papa, baciando per terra, si lecca i baffi e dice è al limone. Una scena bellissima. Io la dovrò proporre all'amico, il Monsignor Nunnari, che ricordiamo è stato lui a salutare me e non viceversa. Dunque, io direi di staccare un altro poco con un'altra canzone e ci ritroviamo tra poco.